Allora, questo era il quadretto, lo 06491750 è libero per chi volesse intervenire. Noi non è che ci siamo dimenticati quello che è successo ieri, naturalmente. L'inchiesta, gli arresti domiciliari, gli obblighi di firme, dicevamo ieri a monte dell'Assemblea Nazionale di Movimento, che ha prospettato una serie di appuntamenti contro l'austerity, credo che si chiami Assemblea Nazionale contro l'austerity, qualcosa del genere. Però sotto mano non ce l'ho, però comunque tra cui uno degli appuntamenti più importanti era proprio uno dei primi appuntamenti, no? Il più importante è domani, questo corteo nazionale, se ho capito bene, contro i CIE o comunque contro la politica sull'immigrazione dei passati governi, del presente governo e dei futuri governi, supponiamo, con appuntamento a Ponte Galeria. Sì, a Ponte Galeria presso il centro commerciale. No, guarda, no. Adesso per evitare di dire stupidaggini, sì, controlliamo. Comunque, corteo nazionale per andare sotto il CIE, per gridare tutta l'indignazione rispetto a quella struttura e tutta la voglia di mettere fine a una stagione vergognosa per quanto riguarda i diritti degli immigrati e dei cittadini del mondo in generale su questo. E appunto avviene a monte di questa cosa qui, a valle, ho fatto al contrario, dell'Assemblea Nazionale. L'abbiamo interpretato, l'abbiamo anche detto, l'hanno interpretato gli stessi compagni e compagne dei movimenti del diritto all'abitare ieri in corteo da Porta Pia fino a Via del Tritone, perché l'inchiesta prende spunto da dei piccoli incidenti avvenuti in occasione di un vertice europeo del mese scorso, se non vado errato, ma con le date sono sempre un po' confuso, e sembra proprio una, come dire, la voglia di segnalare da parte della questura di Roma, dei poteri, diciamo, giudiziari e polizieschi, di dire attenti a voi, a quello che fate sabato e a quello che farete, perché c'è sempre, come dire, la mano forte dello Stato anche laddove c'è un momento di crisi politica forte, perché c'è effettivamente stamattina, ieri sera è caduto il governo e si sa che quando cadono i governi i ministri sono un po' azzuppati e le strutture gerarchiche, quelle burocratiche degli apparati, anche di quelli repressivi, in genere tendono, come dire, a avere da una parte un grado di libertà, dall'altro un grado di impotenza, e non è un caso che qui c'è la magistratura che dà un segnale forte e, magari non esagerato, ma grave, perché i reati che vengono contestati al di là della radunata sediziosa, quindi della manifestazione non autorizzata, della radunata sediziosa, della violenza privata, Vabbè, comunque i reati sono questi. Sono questi, però in particolar modo c'è un reato che sembra quasi un corollario, una piccola cosa, che è il furto di un manganello e di uno scudo, che ha massimi edittali, così si dice, di pena molto alti, e poi insomma vedi, molto anche difficili da contestare o difficili da... Vediamo un po' se è una telefonata per la diretta. Pronto? Pronto? No, evidentemente no. Insomma, perlomeno non ci risponde. Pronto? Pronto? Sì, sei in onda. Buongiorno, senti, io ho seguito, che sto a fare la spesa, un po' pezzi bocconi, il dibattito sul giornale, sul manifesto. Io quello che volevo dire è che dopo... Sì, il dibattito era sul nuovo giornale, su pagina 99, giornale. Sì, che c'ha a che fare col manifesto, sì. Precisare una cosa, per amore di informazione, che il vecchio gruppo Rossanda, Parlato, eccetera, se n'è andato ferito a morte... Io credo non politicamente ma umanamente, dal fatto di essere stato tacciato, insomma, la Rangieri ha detto a Rossanda che era bugiarda. Allora secondo me qui c'è, come dire, il nuovo rampante che esce, e poi è un anno, un paio d'anni, se non di più, che di fatto il manifesto è diventato, purtroppo lo dico, perché a me mi è servito il giornale, fa prima un po' cervello quando ero giovane, insomma. È diventato però un organo vicino alla CGIL, a SEL. Questo è diventato. Poi il nuovo non credo che potrà scavalcare a sinistra il vecchio, insomma. Credo che anzi ci abbia come dire, una linea ancora più moderata, ecco. Però lo mi sai sembra... che c'è, che è un mondo strano, perché quando Renzi ha lanciato la sua, l'inizio della sua avventura, non a Firenze, questa ultima, sai, ti ricordi l'incontro con Landini? Siamo d'accordo con Landini, le polemiche con la Camusso. C'è uno strano, c'è uno strano modo di una certa sinistra di un certo tipo a un certo punto a trovare una liaison su certi terreni, no? Se ti fa venire in mente qualcosa. Ma no, io facevo l'esempio Landini-Renzi che si incontrano e dicono siamo d'accordo quasi su tutto, ma come, tutti a dire sul Corriere della Sera, come il diavolo e l'acqua santa. E allora può essere che questi vecchi, per certi versi, che escono dal manifesto offesi, poi si rivolgano ai giovani che vengono da altre parti. Non lo so, boh, la butto lì. Io volevo capire una cosa da voi: questo nuovo, come si chiama? Pagina 99. Pagina 99. Volevo sapere da voi chi ci scrive. Allora c'è direzione c'è un triumvirato in cui c'è la Carlini e altre due persone, la Carlini del manifesto. Poi ci scrive Robecchi, che era passato un po' al fatto con i suoi corsivi. C'è Marco Deramo. Deramo già inviato negli Stati Uniti del manifesto, e poi diversi altri soggetti. E poi c'è un pezzetto dell'Avvenire da tra i giovani. Giovani formati che fanno i giornalisti, sai, quando fai il giornalista chi ti offre un contratto? Giri in redazione. Ma non ho capito, allora questa pagina 99 uscirebbe col manifesto da solo? Forse non hai seguito bene. È un giornale che è da quattro giorni in edicola. È un giornale da quattro giorni in edicola che non c'entra niente. Ma perché Roberta Carlini ieri stava in televisione? Esattamente, è lei, una delle tre direttrici, è proprio quel giornale lì. C'ha questo colore un po' rosa salmonato, i titoli rossi in minuscolo. Ma insomma, si presenta come un giornale. Guarda, ti dico solo una cosa, io continuo a comprarlo solo perché ci scrive Michele Giorgio per per le cose. In questo caso parli del manifesto, però. Parlo del manifesto. Va bene, noi ti ringraziamo perché abbiamo aperto un'altra parentesi. Ciao, grazie. Non ho capito niente, ciao. Ma comunque gli ascoltatori, la radio poi è un po' così, bisogna essere molto comprensivi, nel senso che la gente c'ha da fare, sta a fare la spesa e c'ha pure ragione, nel senso che non è che può stare attaccata al... Dovremmo essere noi molto più sintetici e molto più brevi, ma gli interlocutori sono pesanti, parlo dei primi, parlando degli esperti. Tanto da dire. Hanno tanto da dire, ma poi ogni volta che li interrompi sembra che gli hai tolto il diritto di parola, sono un po'... Squilla di nuovo il telefono, proviamo a rispondere. No, ci stavamo concentrando invece sulla vicenda che ha riguardato i movimenti di lotta, ricordando poi che ieri mattina, oltre alla retata fatta... c'è un'altra telefonata, pronto? No, volevo solo... Buongiorno. Buongiorno, rettificare alcune cose sulle iniziative, sulla seconda... categoria di lavoro che stavate affrontando. L'iniziativa di domani, che è sabato 15, è un'iniziativa romana, non è un'iniziativa nazionale, anche se si inquadra... C'è da dire che gli organizzatori fanno un sacco di confusione comunque. No, questo la radio non può farlo perché parte in causa, ha fatto parte della preparazione di questa iniziativa fin da tre mesi fa. E avendo preso parte al, chi se lo ricorda, chi c'era il 26 di dicembre, quindi sotto le feste di Natale, in una giornata molto fredda e piovosa, in circa un'ottantina che eravamo sotto il CIE, nel momento in cui i nostri fratelli stavano dando il meglio o peggio di sé, non lo so, in virtù del fatto il meglio sicuramente perché protestavano all'aperto sotto quelle intemperie, il peggio perché si cucivano la bocca di fronte all'infamia di quello che è un CIE, di quello che è una detenzione che dura per molto di più di 6 mesi, arriva fino a 18 mesi, e nessuno si muoveva, e pur avendo questa pletora dei parlamentari, sta gentaccia, regionali, nazionali, che nessuno entrava lì dentro. Tutto è cominciato poi con questo parlamentare tunisino nelle liste del PD che se n'è andato a Lampedusa in mezzo agli ultimi rimasti scampati al pericolo, al mare, eccetera, eccetera, E poi noi, quelli che eravamo, andar là sotto e il giorno dopo ancora presso la direzione del PD, no, a dirgli ma siete una banda de criminali, insomma, a lasciare sta gente così. Quindi lì nasce la necessità di prendere in mano questa storia dei CIE, tenuto conto anche che gli tre marcore a un sacco di gente, sapendo benissimo che sono incostituzionali, ecco, manca alla decisione della Corte Costituzionale, dopo le importanti decisioni che ci ha messo da luglio dell'anno scorso, la sentenza contro i diktat di Marchionne, la decisione sull'abolizione del Porcellum, questa qua di l'altro ieri importantissima sull'abrogazione della Fini Giovanardi, adesso necessiterebbe immediatamente, visto che noi, le nostre forze sono stentore, di farle eliminare i CIE, ovviamente, perché ledono tutta la Costituzione, dal primo capitolo, voglio dire, fino all'ultimo, la ledono tutta, insomma, in qualche misura. Non c'è nessun diritto dentro i CIE, neanche quello deve avere l'avvocati, voglio dire, i giornalisti un po' ne entrare, ecco, tutta sta porcheria qui e via di seguito. E a fronte di quello, dicendo benissimo, prendiamolo in mano, eccetera, eccetera, è venuta fuori questa data che non era precisata immediatamente al 15 febbraio, poi, poiché sapevamo che il 16 i siciliani andavano al CARA, che è diverso dal CIE ma è sempre un lager, giù a Mineo, doveva essere 400 posti, è diventata una città dei 5.000 abitanti in cui si ripetono tutti i ruoli, compreso quello dei caporali, delle prostitute, dei disgraziati assolutamente, del mendicio, insomma, eccetera eccetera. Quindi è venuta fuori questa bilateralità. I romani faranno la manifestazione domani ore 15 dal centro commerciale Parco Leonardo. L'appuntamento per chi vuole andare insieme è alle ore 14 alla stazione Ostiense, da dove parte una fermata del trenino che va a Fiumicino all'aeroporto. La fermata è Parco Leonardo. Per chi fa tardi, prendendo sempre il trenino, viene direttamente al CIE e la fermata è Fiera di Roma, giusto per dire. Chi viene in macchina fa la via Portuense e arriva davanti al CIE oppure arriva davanti al parco commerciale. Io mi chiedo sempre perché non c'è qualcuno in radio così preciso nel dare le informazioni come Vincenzo. No, vabbè, ho detto però... No, ma sul serio, è una battuta, però è vero, nel senso che no, c'è un problema, cioè abbiamo pure noi un tasso di disattenzione. Sai, per molti che telefonano in radio e trovano ovviamente un pezzo di redazione magari più giovane, senza dare nessuna etichetta ai giovani, ovviamente c'è... ci sono molti che non sanno adoperare ovviamente il registratore lì in radio. Ci vorrebbe una cosa molto semplice, in modo che le notizie che arrivano per telefono, e sono spesso veloci eccetera, vengono già come dire registrate e poi possono essere mandate tal quale come sono state fatte nella registrazione. Ma io volevo dire questo qui eccetera, perché noi ci avremmo bisogno proprio della lavagna. È importante questa giornata perché sicuramente questo insieme di realtà, nessuna diversa dalle altre, questa pluralità di realtà romane si ritroverà domani, io mi auguro, in moltissimi, in migliaia, perché c'è l'autorizzazione finalmente dal Parco Leonardo fin sotto il CIE. Avevano messo problemi perché siete troppi, perché che volete fare, volete scavarcare eccetera eccetera. Eh sì, che lì non c'è spazio, no? Siamo troppi perché lì non c'è spazio. Sì, è immenso lo spazio eccetera, e quindi staremo lì fino a tarda sera in modo che la nostra voce si senta all'interno e possa contribuire a sollecitare le altre situazioni che hanno dei CIE, sono almeno 16 in Italia, ovviamente alcuni sono chiusi temporaneamente, la metà, in modo da diventare questo uno degli assilli ovviamente nei confronti del potere, quello attuale, i governi, quelli successivi eccetera eccetera. E dentro questo però lasciami dire due parole riguardo invece alla questione dei nostri compagni arrestati, di quelli che hanno le misure restrittive, in una situazione in cui sicuramente si può dire che tutto ciò avviene all'indomani di un'assemblea che ha individuato quello che è l'offensiva di primavera, così meglio detta ovviamente, tenuto conto che le proposte condivise sono quelle della manifestazione nazionale il 12 aprile a Roma, in funzione della richiesta di redistribuzione massima di reddito, ovvero della ricchezza sociale, in mancanza del reddito, sia per i senza reddito sia per i salariati, e quindi lì il discorso di critica all'austerità, alla precarietà, eccetera. Ma soprattutto anche il primo maggio, che queste nuove generazioni, e se è importantissimo che lo decidano le nuove generazioni, potevano essersene scordate del primo maggio, il valore politico, emblematico, simbolico, eccetera, potevano essere scordate a maggior ragione visto che loro sono escluse dalla battaglia del lavoro, delle pensioni, eccetera, e invece assumono il valore del primo maggio affinché lo si porti via ai soliti funzionari, mercenari ovviamente del sindacato, eccetera, ritorni a essere quello che è, una giornata di lotta, così come era nata. E quindi l'impegno a fare di tutti i primi maggio questa giornata di loggia, a maggior ragione di quello di Milano, dove tra breve verrà aperta l'Expo, e nell'Expo ci sono delle infamie formidabili, comprese le assunzioni con contratti fuori di qualsiasi contratto, cioè praticamente sono una formalità al contratto, poi possono fare accordi come gli pare, tanto gli orari sono quello che decide il padrone, il salario è quello che decide il padrone. È una porcheria che l'abbiano avallato oltremodo ovviamente CGIL, CISL e UIL, e tu dirai è normale che tutto cosa si faccia. Beh, è normale addirittura far lavorare, penso, mi pare che i numeri parlavano di 16.000 persone, 16.000 o qualcosa del genere, 16.000 persone sostanzialmente in deroga a qualsiasi contratto. Sì, quasi gratis. Quasi gratis. Robetta da 600 euro, insomma, c'era per 10-12 ore di lavoro. Beh, detto questo, ovviamente quello di Milano è il più importante, del resto c'ha la sua tradizione, la May Day milanese, eccetera, ma quest'anno avrà sicuramente questo valore ricompositivo come negli altri, e soprattutto quello di Roma, per cui la campagna comincia ora dicendo ai soliti artisti che si prodigano a fare questa comunicazione, chi per piaggeria, chi per proprio ego personale, chi per finestra, come dire, di vendita dischi, eccetera, eccetera, chi con qualche coscienza. No, ma quella è proprio una macchina da guerra economica, il primo maggio. Lo so che è così, quindi già ci si rivolge a loro televisivi dicendo smettetela, quest'anno è possibile fare un'altra cosa, vediamo quello staremo a fare avanti. E terzo punto, la possibilità di ricomporre tutto questo nel mese di maggio-giugno in un grande sciopero generalizzato, questa volta con tutti i crismi della generalizzazione, a partire dalla convocazione e poi successivamente nelle iniziative che non saranno solamente lo sciopero, cioè l'assenza dal lavoro, ma saranno anche i blocchi, saranno anche le occupazioni, saranno anche le prospettive ovviamente di reale di portare a casa alcuni risultati concreti. Ecco, finisco dicendo che tutto questo c'era, ci mancherebbe, alla immediatezza dell'Assemblea Nazionale che è avvenuta domenica scorsa scattano i mandati di cattura di ieri. Bene, però va detto con molta concretezza che il mandato di cattura era pronto dal 20 gennaio. Allora, se il mandato di cattura, che è un mandato di cattura copioso, mi sembra 25 pagine, in cui ci sono i reati di cui tu aggiungevi ovviamente quello ridicolo e pesante della presa di un manganello da parte di 5, si sono buttati tutti su un manganello, è ridicolo tutto questo. Io ho visto anche le foto che sono apparse sul sì, ma aspetto da un momento all'altro che esca fuori qualche blog di Se non ora quando, che dice eccoli i soliti maschi che si buttano sul manganello fallico. Pensa un po'. No, sto scherzando, la buongiorno tipo, ecco, insomma. No, io ho visto le foto che sono apparse ovviamente sull'online del Messaggero, del Corriere della Sera, di Repubblica, e me ne dimentico sicuramente qualcuno. Beh, io questa storia del manganello, nonostante sono foto poste lì dalla conferenza stampa che ha svolto il capo della Digos ieri in questura, e quindi sono lui che le ha riportate. Che si chiama il dottor? Adesso te lo dirò, Parente. Parente, sì. Parente. le ha certificate come foto scattate ovviamente dai loro bravissimi fotografi della PS e dei Carabinieri. A fianco aveva il colonnello dei Carabinieri. E ovviamente e si chiama non me lo ricordo. No, non era il colonnello dei Carabinieri, era il capo del ROS. Ah, allora sì, un colonnello che c'ha anche un padre che era generale. Possibile. La locatina. No, era generale in pensione da 15 anni, però beh, questo è un altro capitolo. No, è interessante. Allora, questa cosa del manganello adesso appare, ma io vedo che sto manganello ci sono i compagni che ci mettono una mano per un pia le botte. Se ce ne hanno altre in cui sto manganello poi viene perso dal capoccia che ce l'ha a mano e quindi per giustificarsi glielo accolla ai compagni, è veramente ridicolo. Come ho visto chiaramente i compagni, soprattutto quelli più noti, Luca e Paolo, che si sono dati veramente da fare per non calmare gli animi, ma per essere concreti dicendo è un'ora che vi stiamo chiedendo di fare due passi indietro, di farci arrivare in questo posto e voi vi attardate. E poi ci sono una montagna di foto prese da di dietro, dove stava tutto lo schieramento della polizia, dei blindati, in cui questi fanno come gli pare, sparano candilotti lacrimogeni da tutte le parti, hanno come dire una contrapposizione normalissima da ordine pubblico nei confronti degli altri, e davanti alcune foto vedono invece la contrapposizione della testa di questo corteo, che tutti a volto scoperto non si periziano, voglio dire, di fare altro se non dissene tante, fanne tante, che se nell'ultimo arco dei 15 anni l'abbiamo vista, hai voglia di quante ci sono state. Mo che tu puoi accanirti nei confronti di costoro per questo episodio del 31, allora tu ciurli nel manico, ce la stai mettendo tutta per prenderci per il culo, anche perché se andiamo a riprendere i giornali del subito dopo, del primo, 2-3 novembre, tu troverai che a partire dal capo della polizia per finire al ministro degli interni e quanti altri hanno detto insomma, però quella giornata ce la siamo cavata, sì, e poi le forze dell'ordine sono state brave, però pure i movimenti gli diamo atto che ce l'hanno messa tutta per non far degenerare la situazione. Ti ricordo che quella giornata era la giornata in cui si incontrava la conferenza Stato-Regioni, e nella conferenza Stato-Regioni ovviamente c'è il governo che relaziona ovviamente alle regioni, e tutti insieme prendono una decisione in parte consultiva, in parte decisionale. In quel caso c'era anche il capitolo della casa, che poi non scaturì niente, come al solito non scaturisce nulla ovviamente da quel punto di vista, ma è ovviamente perché si era in piazza, perché si era direttamente interessati, non è che si era in piazza. No, ma è chiarissimo, è chiarissimo. Ecco. Vorremmo arrivare un po' a un punto, Vincenzo, perché purtroppo è un po' tiranno. E dicevo, la conclusione è questa, quindi c'è già a fronte di quanto è avvenuto il 18 e il 19 di ottobre la preoccupazione da parte del governo, delle parti politiche, di dire ma qui sta sorgendo un movimento concreto che si oppone direttamente all'austerity, alla precarietà, cioè ai nostri disegni criminali, eccetera. Noi bisogna che a partire da questo momento ci mettiamo una bella toppa, e la toppa ovviamente trova spazio, uso da questo episodio molto importante del 31 ottobre. Ma se non ci fosse anche stato il 31 ottobre, l'avrebbero trovata da qualche altra parte. De fatto già lo tsunami dei, cioè le occupazioni di case ripetute, il fatto che Roma viva una situazione per loro di illegalità, per noi di piena legalità, di fronte, come dire, alla disgrazia della povertà, eccetera, perché pagare ancora l'affitto, perché pagare ancora le bollette, si vive in stato di necessità, sono loro che ci costringono a vivere in uno stato di necessità, e allo stato di necessità si risponde con non pago, si risponde vivendo questa difficoltà. E allora a questi signori gli va detto, ma avete capito che state a combinare? Se pensate che questa è la vostra reazione, voi non avete capito un cazzo, come al solito, insomma, no, non avete capito che cosa avviene a partire da ieri, quando ci sono state in tutta Italia 12 manifestazioni, eccetera, e che ripresenteranno i conti, perché c'è una specie di proliferazione nazionale dell'assedio. E che pensate, io che so questa mia età,

Allora, le 10